ia ia o. C'è un bel cortile, chi c'è un cavecito col cancello, c'è vicino la ferrovia, ia ia o. Nella vecchia fattoria, ia ia o. Tante bestie al giorno via, ia ia o. C'è la cabra, cabra, cabra. Nella vecchia fattoria, ia ia o. Attaccata al carrettino, ia ia o. C'è un quadrupede vicino, ia ia o. L'asinelli, nelli, nelli, nelli, nelli. C'è la cabra, cabra, cabra. Nella vecchia fattoria, ia ia o. Tra le casse i ferri rotti, ia ia o. Dove i topi son grossotti, ia ia o. C'è un bel gatto, miau, gatto, miau, gatto, miau, miau. L'asinelli, nelli, nelli, nelli, nelli. C'è la cabra, cabra, cabra. Nella vecchia fattoria, ia ia o. Sempre grosso e tanto grosso, ia ia o. Tutto sporco il più non posso, ia ia o. C'è il maiale, iale, iale. C'è un bel gatto, gatto, gatto. L'asinelli, nelli, nelli, nelli, nelli. C'è la cabra, cabra, cabra. Nella vecchia fattoria, ia ia o. Lascio l'argine del fosso, ia ia o. Alle prese con un osso, ia ia o. C'è un bel cane, cane, maiale, maiale, maiale. C'è un bel gatto, miau, gatto, miau, gatto, miau, gatto, miau, gatto, miau, gatto, miau, gatto, miau, cabra, cabra, cabra. Nella vecchia fattoria, ia ia o. Tra le teste c'è un trattore, ia ia o. Quando gira che rumore, ia ia o. C'è la tromba, tromba, tromba, tromba, tromba. C'è un bel cane, cane, maiale, maiale, maiale, maiale. C'è un bel gatto, miau, gatto.